perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Alessandro Milan, dopo il caffè, il più grande piacere della mattina. Leonardo, tappeto, mi ha bloccato il passaggio sulle scale mobili. E capito, godica, apel mia, no? Oh Milan, ma ritirati. Io saluto solo la gentile. La Veronica è giornalista, lei, la Juventus dei giornalisti. Signori, i funamboli sono tornati. Se non avete capito, potete via WhatsApp, ora Veronica vi dà il numero, mandare le vostre sigle, i vostri saluti, i vostri messaggi audio, vero Veronica? Praticamente invece di chiamare il telefono amico o il telefono, ma, telefono azzurro, il telefono rosa, voi chiamate noi e potete andare così, flusso di coscienza, parole in libertà. WhatsApp audio. WhatsApp audio al 349-238-6666 e ripeto ancora 349-238-6666. Sì, sono 15 anni che il numero è questo, quindi la gente ce l'ha memorizzato. Radio, tu dici che lo sanno a memoria, sì. E che noi proprio così, come capito, lo dice la ve lo ricordate. Allora, il numero 349-238-6666, la gente ormai lo sa. Lo vedi, per questo lo devi ripetere tutte le mattine, perché lo dici veloce, con sciatteria, e la gente non fa in tempo a segnarlo. No, tra l'altro appunto gli audio sono questi, potete mandare le vostre sigle, mi raccomando, soprattutto tanti insulti, si sa, come al solito, come nei miei confronti, e va bene, giustamente, va bene. Se arrivano i messaggi soltanto per insultarci, nessuno ti manda mai un messaggio per dirti cose tenere e dolci. Va bene così. 800 24 00 24, questo invece è il numero per chiamarci diretta. Aspetta, però prima di così iniziare la puntata, ma ieri sera l'hai visto o no questo confronto tra Renzi e Renzi? Ma pezzettini. Ho visto l'intervista più sconvolgente della storia degli ultimi anni sulle Iene, con Giulio Golia, che ha intervistato l'ex sicario di Pablo Escobar. Quella mi ha colpito di più. Quella, lì però aspettavi da mesi, perché dillo che sei un fan patologico. Dillo. Di chi? Di Giulio Golia, delle Iene? No, di Narcos. Di Narcos, che sei un fan di Narcos, e quindi non ti sembrava vero ieri. Hai detto finalmente, era l'apoteosi per te. No, ma devo dire, mi ha veramente colpito. Se potete, andate a rivederla sul sito delle Iene, perché è impressionante. Cioè la lucidità e il non pentimento neanche di mezzo secondo di una persona che ha ucciso 257 persone. Il sicario di Escobar, intervistato da Giulio Golia. No, guarda, vai a rivederla, perché me la vado a rivedere. Però non mi puoi liquidare l'intervista di Renzi con questa sufficienza. Ma non l'ho vista. Aspettavamo i popcorn, le cose, niente. Non l'ho io vista. Io sono stata lì appesa fino all'ultimo. Vabbè. Proprio come fosse un thriller. Ma guarda, di politica parliamo all'inizio, perché il primo funambolo che ospitiamo è proprio relativo alla politica. Tra l'altro è stato citato anche da Matteo Renzi ieri in intervista. Ha chiuso parlando di lui la sua intervista ieri sera. Proprio a fagiolo. Alle 9:11 minuti partiamo da lui. Allora, io non lo so cosa si possa provare a 21 anni a racimolare circa 20.000 preferenze in Sicilia, quasi tutte, anzi a Messina. C'è riuscito Luigi Genovese, in arte Genovese Junior, figlio di Francantonio Genovese, ex deputato, e che poi ha avuto anche qualche vicissitudine, visto che è stato condannato in primo grado a 11 anni di carcere. Luigi Genovese, buongiorno e grazie buongiorno di essere qui con noi. Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Allora, mister preferenze, che... Così dicono, beh no, questo è un dato di fatto, 20.000 quasi, a 21 anni. 17. Ma hanno votato 17. Lei o hanno votato suo padre? Cioè hanno votato il cognome o hanno votato lei? Ma pare che abbiano votato me. Ma questo in base a che cosa lei lo dice? Cioè che cos'è che le fa capire che questi voti sono proprio suoi? la campagna elettorale l'ho fatta io e devo dire che ho conosciuto anche parecchie persone in questo periodo. Naturalmente il supporto di mio padre non è mancato, ma penso che se anche voi foste state candidati, naturalmente i vostri genitori vi avrebbero appoggiato. Però lei rivendica continuamente l'aiuto di suo papà e lo rivendica anche come figura illuminante per il suo percorso. Dice alcuni estratti delle sue interviste: non avrò problemi in politica perché seguirò i consigli di mio padre. Lì ci sono strumentalizzazioni diverse. Penso sia normale chiedere consigli ai genitori e soprattutto penso, non so se avrei fatto politica se loro non l'avessero fatta nella vita. Di conseguenza penso sia normale che mi abbiano trasmesso questa passione. C'è da dire che un terzo praticamente di tutte le preferenze di Forza Italia nel messinese le ha prese lei. Sì, è così. E lei non ha mancato di rivendicarlo. Infatti ci si chiedeva se questo fosse anche un po' un messaggio subliminale per Musumeci, come a dire appunto: sappi che hai avuto bisogno di me, che c'è stato bisogno, perché si sa che il suo nome era stato... No, assolutamente no, nessun messaggio subliminale. Devo dire che qualcosa di importante per il... Aspetti, tenga il cellulare vicino alla bocca, perché mi perdoni, si sente? Sì, adesso sì. Ora sì. Devo dire che non c'è stato nessun messaggio subliminale al presidente Musumeci. L'unico messaggio che gli viene mandato, ma avevamo già avuto modo di parlarne, è semplicemente un'attenzione nei confronti non miei, ma della mia città, che gli ha dato grande attenzione e un grande risultato elettorale. Naturalmente questa attenzione questi 5 anni fa non c'è stata, nonostante il risultato fosse stato altrettanto importante. Ecco, questo è un punto importante però, Luigi Genovese. Si è tanto polemizzato, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, sulla questione dei cosiddetti impresentabili o presunti tale. Detto che le eventuali colpe dei padri vanno accertate, non ricadono sui figli, ma lei sente che suo padre può essere definito impresentabile? Innanzitutto io credo di non essere impresentabile io in prima persona, in quanto non ho nessun procedimento penale in corso. Infatti io questo l'ho detto. Ritengo anche che non sia impresentabile mio padre, in quanto ha una condanna di primo grado e ancora deve passare 2 giudizi. Nei 5 Stelle mi piace fare un passaggio. Loro hanno tanto parlato in campagna elettorale più degli impresentabili che dei contenuti, e questo è un problema evidente, anche perché io mi sono concentrato solo sui contenuti. Se io non, per esempio, sono stato attaccato perché ho parlato di fondi europei, è proprio da dire direttamente da Grillo. Se io non potessi parlare di fondi europei, credo che suo figlio, per esempio, non potrebbe neanche parlare di sicurezza stradale, dato i noti fatti che l'hanno coinvolto e soprattutto condannato in terzo grado. Grillo non è candidato a nulla. No, e poi questo infatti non è no, un però esempio. È il capo di un partito. Il capo del partito. Però assolutamente da questo punto di vista credo sia importante anche riuscire a parlare di politica e non soltanto di odio sociale. Ma comunque lei dice non è impresentabile in quanto condannato in primo grado. Lei ha chiaramente, però insomma, non è che suo padre sia una persona uscita dalla politica. Noi sappiamo che suo padre dopo è anche molto presente come figura. Non a caso c'è stato un cambio di partito. Lui apparteneva al Partito Democratico. Dopo la condanna in primo grado ad 11 anni, parliamo chiaramente, mancano 2 gradi di giudizio, però ci sono già stati carcere domiciliari, insomma, sappiamo l'iter. È passato a Forza Italia. Al 2017, noi siamo passati in Forza Italia nel 2015. No, appunto, segnalo che esiste comunque un passaggio politico importante, quindi è una figura che ancora c'è. Allora, lei, rispetto a quello che è l'iter di suo padre, a quello che è successo, premettendo che mancano 2 gradi di giudizio, qualora suo padre fosse dichiarato colpevole, lei che posizione assume rispetto a questo? Ma io non parlo con i se e con i ma. Se dovesse succedere, naturalmente prenderò una posizione, ma rispetto a questo sono convinto della loro totale estraneità ai fatti, anche perché già nel processo di primo grado si è evidenziata una certa estraneità. Mi rendo conto che la condanna è abbastanza pesante, ma se si guarda tutto il contesto uno si può ricredere. In che senso estraneità? Adesso non vogliamo fare i pubblici ministeri, ma è stato condannato a 11 anni, quindi ci saranno delle basi. Non sappiamo ancora le motivazioni. Le motivazioni. Le no, però c'è un aspetto che mi colpiva, che è l'aspetto sui giovani. Però vogliamo sentire Renzi, perché è il punto, focale in cui Renzi la tira in ballo anche suo padre. Proprio nel concludere l'intervista ieri di martedì da Floris, Renzi ci ha tenuto a precisare proprio questo su suo padre e su di lei. Noi abbiamo perso 17.000 voti in Sicilia, Floris, di un signore che si chiama Genovese. Franco Antonio Genovese era un deputato del PD di Bersani del 2013. Nel 2014 il mio partito decide di votare a favore dell'autorizzazione all'arresto. Franco Antonio Genovese, che è condannato in primo grado, non in via definitiva, ma in primo grado, per, mi pare, 9 anni o qualcosa del genere, quando è uscito di carcere ha lasciato il PD ed è andato in Forza Italia. Il figlio di Francantonio Genovese ha preso 17.000 preferenze a Messina. Sono 17.000 preferenze che avremmo preso noi. Io sono fiero e orgoglioso che quelle 17.000 preferenze non siano nel PD. Ha capito, fiero e orgoglioso è Renzi, che lei sono non contento, faccia più... Sono contento per lui. Come ho detto più volte, penso che lui debba concentrarsi un po' di più sul congresso del PD, visto che è in serie difficoltà a livello di partito. Ma a parte questo, mi sento di dire che proprio dell'arresto di cui lui parla e che lui ha tanto sponsorizzato, credo fosse finalizzato a una vittoria elettorale dell'Europea. Ah, cioè dice è servito per fare il pieno di voti. Erano esattamente 3 giorni dopo. Cioè è stato estromesso dal Parlamento e poi in effetti fu il pieno di voti di quel PD. 40%. Quindi fu fatto per carcerato quello. Carcerato il giovedì dopo, quindi mi sa che qualità è sospetta. Però insomma... Vediamo, la condanna in primo grado poi c'è stata, c'è una qualche base evidentemente. Infatti io non le volevo fare una qui a giudicare una domanda sulla, sapendo sempre le premesse appunto in primo grado, però la requisitoria che fece il PM parlava di una gravità di reati anche nei confronti dei giovani in particolar modo, perché si sottraevano risorse in un settore strategico e vitale come la formazione professionale. Allora in questo senso lei da giovanissimo, lei ha 21 anni se non vado errato, che cosa ne pensa di questo? Del fatto, ripeto, che... io non mi sento di fare dichiarazioni in merito, devono essere ancora motivate la condanna. Le chiedo allora questo: lei da qualche anno fa, 18 anni, cosa ha votato? Ce lo può dire? Il voto è segreto? Assolutamente però. Sì, ho votato Forza Italia. Quindi lei votava Forza Italia anche quando suo papà stava ancora nel PD? Ho votato solo una volta. Lei ha solo votato, quindi in realtà lei ha già anticipato il percorso proprio di suo padre. Quelle famose europee. A però lei europee. Ha dei trascorsi politici invece anche nel Partito Democratico, o sbaglio? Sbaglio. No, dei trascorsi politici scolastici e universitari, non più di questo. Vabbè, cioè giovanissimo. Insomma, finché suo padre era nel PD, lei immagino era simpatizzante del PD, no? Ma diciamo che seguivo la politica in via generale, naturalmente senza mai fare una tessera di partito. Ok, e poi ha votato Forza Italia anche lei apposta, allora, visto che ha detto me l'hanno fatto togliere il Parlamento per vincere le europee. Lei lascia intendere che ho fatto il dispetto al PD. Non è così. Cosa le piacerebbe fare da grande? Ma ovviamente da grande intendo politica. Poi vorrei sicuramente laurearmi, dato che ormai sono al quarto anno, e vorrei anche fare l'avvocato penalista. Ma le piacerebbe continuare in politica anche appunto a livello nazionale, così, cioè il sogno di diventare presidente del Consiglio? sarebbe sicuramente una bellissima esperienza. Se ci dovessero essere le condizioni, sicuramente ci penserò. Va bene, noi la ringraziamo molto. Grazie. Per essere stato con noi, Luigi Genovese. Grazie. Figlio di Francantonio Genovese, è vero, uno poi dice: no, sono Luigi Genovese, 17.000 preferenze, però è innegabile che, voglio dire, in questo momento viene anche presentato come il figlio di Francantonio Genovese, ex deputato del PD, poi passato a Forza Italia, condannato in primo grado, 11 poi, anni, poi vedremo. Alessandro, le polemiche nascono anche intorno al fatto che ha preso una quantità di preferenze che ha lasciato tutti senza parole. No. E siccome sappiamo quanto fosse influente comunque suo padre, quanto sia ancora quanto influente all'interno di quel territorio, chiaramente si pongono dei dubbi. Allora, non per stigmatizzare nessuno. Ha detto alcune cose interessanti: non si sente impresentabile, soprattutto lui, e lui non ha nessun procedimento, men che meno sente impresentabile definire impresentabile suo padre. Comunque questa è la sua posizione. Rispondere anche a tutti quelli che dice: anche voi che gli date voce, ma cosa vuol dire? Siamo ancora a queste cose banali e puerili? Noi diamo voce a tutti, a parte che, voglio dire, è stato eletto. Soprattutto mi sembra che insomma abbiamo fatto delle domande abbastanza, anche possono essere state fastidiose dal suo punto di vista. Eppure sì, lui ha risposto senza, non senza dovremmo fare dare una voce. Piega. Dovremmo fare un giorno un sondaggio a capire a chi possiamo dare voce. Ma poi più così che dare voce, il bello è che decidiamo. Dicono non dovete dare voce, come se avessimo dato voce, no, a un pregiudicato che sembra latitante. No, è stato eletto, informiamo che con 17.000 preferenze è stato appena eletto, quindi gli è stata data molto più che voce. Peraltro ho fatto l'inciso a inizio trasmissione a dire che l'intervista più sconvolgente e coinvolgente anche che ho visto negli ultimi anni è stata fatta ieri da Giulio Golia al sicario di Pablo Emilio Escobar, che ha ucciso 257 persone. Allora non bisognerebbe dare voce? No, bisogna dare voce, perché bisogna vedere le cose, capirle le cose. Mamma mia, questa idea che se uno dà voce a uno è d'accordo con quella persona. No, ma poi c'è anche da valutare che in un paese, nel momento in cui una persona viene eletta e la votano 20.000 persone, 17.000 persone, al di là di dargli notizia. Voce, forse uno si interroga su chi è la persona che è stata votata, perché è stata votata. È banalmente altrimenti chiudiamo gli occhi e non le guardiamo più. Le a cose proposito di piacciono. Notizie, ieri ci ha colpito molto quello di cui parlava Gramellini, che è finita una vicenda di cronaca in prima pagina sui giornali, e da qui vogliamo continuare. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of... Eccoci qui, allora, ieri Gramellini raccontava la vicenda davvero che poteva finire molto male, poteva finire in tragedia, di Younes Nahdi, cittadino marocchino, papà di una bimba di 6 anni che inavvertitamente aveva ingerito delle batterie di un orologio, una batteria di un orologio. Tra l'altro è una delle cose più pericolose se succede, perché per i bambini, perché bisogna subito correre, perché le batterie poi si sciolgono. E sì, ci sono e poi contaminano acidi. I tessuti, ho visto che era una cosa pericolosissima. Sì, Younes Nahdi, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. C'è anche il suo avvocato che salutiamo, Michela De Girolamo, avvocato De Girolamo, grazie di essere qui con noi e buongiorno. Grazie benvenuta. A voi, buongiorno. Allora, Younes, lei ha raccontato questa vicenda perché si è presentata ovviamente, immagino con terrore, all'ospedale di Cirié o al pronto soccorso. E che è successo lì? Niente, sabato 28, sono ora più o meno l'ora di pranzo, i miei figli sono venuti a me e mi dicono: guarda, papà, ho inguaiato una monetina. Una monetina? Ho detto, ma una monetina, mi ha detto, come una monetina? Lei ha detto, ho inguaiato una monetina. Allora ho preso subito corsa, mia macchina, che sono abito vicino all'ospedale di Cirié. Sì. Mm-hmm. Vado pronto soccorso, vado lì con la citazione, guarda, mia figlia mi diceva che ha inguaiato una monetina, lo faceva male qui, lo faceva male al sopago qui in mezzo, e mi dice ok, entra, poi mi fa entrare a aspettare in sala d'attesa. Mm-hmm. Dopo che l'attesa mi chiamava, io ho detto vado a avvicinare la sala della visita del dottore in modo che lo faccio vedere, cioè, che sono bambina, che lo vedo che sta peggiorando. Sì. Niente, mi dice aspetta, adesso ti chiama. Poi dopo l'attesa mi ha chiamato il dottore, entro da lui, appena entro mi dice cosa c'è, detto la bambina che diceva che non aveva una monetina, lo faceva male qui, ok, vado a fare la radiografia, sì, la striscia sì. gialla, ok, ho preso la bambina in braccio, sono andato, ho fatto diciamo tutta la trafila, gli esami eccetera. Il problema si è posto, Younes, quando si è dovuto ricorrere a un trasferimento, no? È quello. Cioè un altro ospedale, perché le hanno detto non ci sono ambulanze. Ma non perché il trasferimento intanto? Perché lì non si poteva far nulla? Non lo so, questa risposta non posso darla io. Va bene, questo non lo so. Io sono lì, sono andato al dottore, volevo entrare, dopo la lastra mi diceva aspetta, ti chiama di nome. Allora, sala d'attesa, aspettato un po', la bambina si è stata a cercare di dormire, cercare di svenire, poi a un certo punto si è stata a vomitare. Allora ho preso la bambina, ho detto iniziativa dal femminile, guarda, la bambina sta vomitando, sì. Se posso vedere il dottore, non lo so cosa ha. Lei mi dice guarda, entra pure, mi ha fatto entrare, dopo un po' sono entrato dal dottore. Tu mi dici guarda, devi andare subito a Regina Margherita, urgente. Ecco, e questo è il punto fondamentale, cioè non ci sono, esatto, non essendoci ambulanze. Non ci essendo ambulanze, quello che abbiamo chiesto io l'ambulanza, ho chiesto io di guarda che sono da solo, se è possibile un'ambulanza. Lui certo. mi ha detto ma non è parente, io ho detto non c'è nessuno, sono da solo con la bambina. Cioè il signor, per spiegare agli ascoltatori, a questo punto il signor Younes Nahdi ha dovuto trasformare, tra virgolette, la propria macchina in ambulanza, cioè ha fatto... Sì, mi ha dato dei vestiti, copre, non lo so come si chiamano, pezzi di carta, latice, cioè, loro roba. Cioè le hanno dato addirittura i guanti in lattice, un camice... I vestiti quelli blu che li usano loro, non lo so, sono... Cioè, è stata un'indicazione dell'ospedale che le ha detto faccia l'ambulanza, cioè si veste e faccia lei il trasporto come se. No, è chiaro, è okay, chiaro che noi poi... non possiamo, mi ha detto noi non possiamo fare niente qui. Allora io a questo punto guardavo intorno, cioè, non c'è alternativa. Non lo sto perdendo i miei figli, vomitava senza l'attesa, stai davanti al dottore. No, ma è chiaro che insomma le hanno dato dei guanti in lattice, dei coprivestiti in ospedale, le traversine da sistemare sui sedili, cioè hanno in qualche modo, dicendo non c'è l'ambulanza, hanno trasformato, ecco, io dico così, non c'è altro termine, la sua macchina in ambulanza. C'è da dire che poi la vicenda finisce bene, nel senso che poteva veramente finire male, anche se in questo trasporto che lei ha fatto, sua figlia insomma rischiava di svenire, lei si è dovuto fermare in tangenziale due volte a cercare di rianimarla. Insomma, avvocato De Girolamo, ci aiuta a capire un attimo. Adesso so che immagino sia partita una denuncia da parte, sì, da parte vostra. Ci sono state le scuse, questo da dire, sia dell'assessore della Regione Piemonte, sia dell'ospedale del pronto soccorso di Cirié. Che hanno fatto anche presente che rimuoveranno, esatto, che tipo di reato? Apriranno un procedimento disciplinare nei confronti del medico intervenuto, ma dal nostro punto di vista quello che chiederemo è che vengano accertate ovviamente nelle opportune sedi le responsabilità sia della struttura ospedaliera che dei singoli, quindi medici e infermieri coinvolti, proprio perché vogliamo che episodi gravissimi come quello che ha visto protagonista il signor Nadi non accadano più. Questo è quello che intendiamo fare, anche poi sulla base delle risultanze documentali, della documentazione clinica che nel frattempo andremo a reperire quando la bambina anche, ci auguriamo tutti. No, anche perché è stato pare un viaggio allucinante, signor Nadi, no? Quello, immagino l'angoscia, immagino la paura, e poi ecco questa idea di trasformare effettivamente la macchina d'ambulanza è una cosa che io non ho mai sentito. Insomma. Ma il tragitto era lungo? 60 chilometri. Sì. E non conosco questa Regina Margherita dov'è. Sì, e c'è il telefono scarico. Oh, no. E la bambina sta morendo. Oh, cielo. Ma qui ci sono, avvocato, gli estremi per un reato anche? Nel senso, un'omissione di soccorso? Responsabilità sia in sede civile che profili di responsabilità penale, certamente. Per cui, tra l'altro, in quest'ultimo ambito è stata già sporta denuncia e ci riserviamo di produrre tutte le integrazioni documentali del caso. Sì, e questo certamente. Devo dire che alla fine, signor Nadi, mi si stringe il cuore a dire è andata bene. In realtà non dovrebbero succedere, è andata bene nel senso che poteva veramente andare molto male per sua figlia Yasmin. Come sta intanto sua figlia adesso? Adesso lì super controllata, sta migliorando, ancora non lo stanno dando da mangiare da sabato 28, sta ancora con tutti i tubi, ma sta migliorando piano. E ringrazio a questo punto Regina Margherita, per primo e l'ultimo. Ma in ospedale ha ricevuto una buona accoglienza, è stata... Insomma, a Regina Margherita, dicevo, il primo che ho incontrato, fino all'infermiera Viola, fino al dottore, grazie a tutti, hanno salvato i miei figli. No, ma tra l'altro io lo ribadisco, lo dico anche per esperienza personale, una volta è successo a mio figlio di ingerire un tappo della penna piccolo e ovviamente si corre subito, pronto soccorso, però è proprio la prima cosa che mi hanno detto, ha ingerito per caso pile, sono le cose veramente più pericolose, è chiaro che è pericoloso anche un tappo, è pericoloso qualsiasi oggetto, però quegli oggetti lì, diciamo, se va tutto bene, come sono entrati escono, ecco, mentre invece le pile, tutte quelle cose che hanno anche delle componenti chimiche dentro, e quelle sono veramente molto, certo, molto pericolose. Sono contaminare. Certo, il quesito è come mai in un pronto soccorso, dove chiaramente non si è attrezzati a tutte le evenienze, non ci siano le ambulanze per trasferire le persone. Ecco, questo poi al di là delle responsabilità del singolo, anche questo è un punto interrogativo. Questo è il primo punto, e si sa che la sanità, per carità, poi la Regione Piemonte è una delle regioni più avanzate dal punto di vista della sanità. Mi colpisce il fatto che le abbiano detto faccia lei, come dire, il guidatore dell'ambulanza, è questo, signor Nadi, che in poche parole arrangiati. No, il dubbio è però se non gliel'avessero fatto fare, la bimba fosse rimasta lì senza possibilità di azione, invece altrettanto cosa sarebbe accaduto, quindi è un po' una questione controversa. È chiaro. C'è una cosa da dire importante, mi sembra che lei l'abbia chiarito anche negli articoli usciti ieri, non c'è stato un atteggiamento, come dire, diverso per il fatto che lei sia un cittadino straniero? Assolutamente no, assolutamente no. Questo tutto normale, non ho sentito nessun... niente per niente. E questa è la cosa importante da dire. Mi tolga solo un'ultima curiosità, oltre a dirle si arrangi, sono stati scortesi, cioè li ha sentiti indifferenti, sgarbati, oppure le sembrava che avessero realmente una difficoltà in assenza di ambulanze? No, ho sentito che mi dicono boh, ma arrangiati, non capisco, io quel momento lì pensavo sui miei figli, non guardavo, sento boh, Questo mi ha detto che non c'è un'ambulanza, io devo arrangiarmi. Disinteressato. Sì, questo è interessato, non stavo guardando intorno, è tutto nero, vedo i miei figli e io li vedo traversina che devo andare Gina Margherita. No, ma è chiaro, in quel momento uno pensa solo a quello. Allora, facciamo così, noi nel frattempo vi ringraziamo. Ringraziamo un grande abbraccio a Yasmin, sì. Innanzitutto. Ovviamente, ringraziamo l'avvocato Michela De Girolamo. Andiamo un attimo in pubblicità e poi dopo rientriamo. Ovviamente 800 24 00 24, se volete intervenire, i numeri di telefono li conoscete, state con noi. I funamboli. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday. Allora, siamo qui, sono 9:37 minuti. Sai che ha colpito molto, Veronica, la storia di Younes? Tanti ascoltatori ci chiamano su questo. Per esempio, Giovanni da Roma. Buongiorno. Giovanni. Sì, buongiorno, dottore. Senti. Buongiorno. Guardi, io trovo che al di là del reato, che questo poi lo vedrà l'avvocato, altro, trovo una violazione di etica terrificante questa. Perché quando una bambina è entrata nell'ambito ospedaliero, è compito dell'ospedale, dei suoi funzionari, della sua dirigenza, trovare un'alternativa all'ambulanza. Non ci sarà l'ambulanza, è possibile, può accadere, ma tu devi chiamare i carabinieri o la polizia o i forestali. Ma infatti quello che mi ha colpito, sì, tenga il camice, metta i guanti in lattice, le traversine sui... È terribile. Io provo anche... capire l'angoscia di, ma sarei stato anch'io, pur essendo italiano, che non so dove, da Cirea andare da un'altra parte, non so dove l'ospedale, dove di notte, ma poi nel panico, è terribile, è terrificante. Io dico che non si può questa burocrazia essere così cieca, sorda, limitarsi all'alveo della circonferenza, sì, poi non lo del perimetro ospedaliero. Giovanni, forse, il bambino lo devi gestire. Forse c'è stato punto. banalmente, forse, perché poi vediamo un errore di chi è intervenuto. Può capitare. No, è che l'anomalia dell'errore è il fatto che se la persona si sente male in 60 km di tragitto, che comunque è sicuramente oltre un'ora, e si sente veramente male, l'ambulanza ha quegli strumenti minimi per cercare di arginare la cosa. In dubbio. Macchina, voglio vedere cosa fai. Ma poi uno che fa? Cioè fa zigzag nel traffico, rischiando di far fare incidenti a sé, agli altri. Ma poi guidando, per cui non puoi nemmeno prenderti cura della persona che è accanto per le emergenze. Esatto. Comunque noi vogliamo, ci sono molte persone che chiamano su questo, tra poco ne sentiremo altre, però dobbiamo, cara Veronica, anche dare il buongiorno al nuovo ospite, Renato Garibaldi. Buongiorno, un'altra vicenda di cronaca che ci ha colpito. Garibaldi, benvenuto. Buongiorno a voi. Salve. E a tutti gli ascoltatori, ovviamente. Siamo a Udine. È una storia da non credersi. La sua, Renato, lo dice a me. Ci ha lasciato senza parole. Vabbè. Ma adesso li chiude i finestrini? Ora spieghiamo perché. Non li chiude i finestrini, e apposta. Se mi ricompro la decappottabile che avevo nei miei meravigliosi e terribili 20 anni, continuo a lasciare aperto il tettuccio, perché a questo paese manca il buon senso. Allora, perché spieghiamo, altro. Lei ha preso una multa guidando il furgone di una cooperativa tra l'altro che gestisce migranti, un centro d'accoglienza. Ha lasciato il finestrino aperto perché faceva un po' caldo e quindi doveva areare un po'. E che cosa è in corso come divieto al codice stradale? Beh, questo bisognerebbe chiederlo a quel fantasioso legislatore superato solo dal malsenso del poliziotto che ha pensato che di attuarlo. Aver lasciato una macchina con il finestrino aperto, ma naturalmente chiusa e con l'antifurto anti-intrusione, ma al di là di questo, cioè... Ma ragazzi, ma siamo veramente nel paese, diceva Calamandrei, del diritto e del rovescio. No, ma cos'è? Divieto in caso di fermata e sosta di che cosa? Cioè, lei è l'articolo 158. Cioè, sì, quello Ecco, voi dovete tener presente, tutti gli ascoltatori devono tener presente che se lasciano il finestrino aperto in modo tale che il malintenzionato possa entrare nella macchina, quindi basta aperto a metà, perché a metà apri la portiera ed entri, no? Incorrono in una sanzione. A me sono arrivate 57 euro di multa. C'è un punto però, signor Garibaldi, che lei ha un sospetto, e cioè che il fatto grave sospetto, purtroppo, cioè il sospetto che lei faccia quello che fa, cioè trasportare in questo caso per la cooperativa dei migranti, abbia inciso, perché questa è un'accusa. Sì, no, allora intanto precisiamo che noi accogliamo solo ragazzini dai 9 ai 17 anni, 18 anni non compiuti, ma molti di questi non sono italiani, provengono da Kabul, dalla Siria, da tutte le parti del mondo, perché sono i famosi bambini abbandonati. Purtroppo io nella fattoria sociale affiancata alla comunità d'accoglienza accolgo anche detenuti a fine pena, cioè recupero praticamente alcuni detenuti per il reinserimento lavorativo. Ma questo con la multa, progetto... con la multa che c'entra? Però? C'entra. Fermi tutti. Allora, il furgone, vorrei lo vedeste, ha una scritta mega galattica che ricorda appunto dove siamo, il numero di telefono, la nostra email, e a Udine ci conoscono tutti, belli e brutti, quindi... Quindi dice rubarlo. Peccato, come diceva Andreotti, però ho malignato sul fatto che forse la polizia stradale, alcuni della polizia stradale non la vedono di buon occhio, non vedono di buon occhio sul lavoro. Perché io stavo guardando nel frattempo l'articolo e c'è scritto al punto O che durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Quindi cioè, la questione dovrebbe essere che quindi se tu... con la moto, le moto dovete blindarle tutte, dovete metterle in garage, e le decapotabili non più aperte, perché ovviamente se lasciate la decapotabile aperta, voi sognatori dell'aria libera come me per tanti anni non potete più farlo. Ma mi dica un po' se non è il paese del diritto ed è rovescio questo. No, ma giustamente lei obietta che esiste anche l'antifurto, per cui uno dice: io per la macchina ho l'antifurto, se poi voglio lasciare il finestrino aperto. Ma di fronte alla multa del genere, c'è un'altra intrusione, cioè vuol dire che se uno mette dentro la mano, suona, e poi mi scusi, per rubarmi l'autoradio di 40 per salvarmi l'autoradio di 40 euro, i poliziotti me ne hanno fatti spendere 57. Allora il danno al patrimonio, chi me l'ha fatto? Ma no, ma devo dire che di fronte a una multa del genere c'è anche poco da obiettare, se non un po' sorridere amaramente. Il fatto che amaramente, ecco, perfetto, esatto, siamo d'accordo. Aveva il finestrino abbassato, è in corso in questa violazione del codice, perché insomma, ha dato la possibilità a qualcuno che non era lei di guidare il veicolo, un ladro, e quindi, Questo te, Alessandro, sei un fan della libertà sempre, no? Ognuno, in questo caso non è che mi schiero con te, siamo oltre lo schierarsi con te. Uno non può nemmeno lasciare il finestrino aperto, esatto, senza essere multato. Comunque, Renato Garibaldi, noi la ringraziamo, ha un trisavolo che il cognome dice tutto, è abbastanza famoso, ecco, questo abbiamo letto. E io per chiudere le volevo chiedere, ce la fa una profezia sul destino dell'Italia? Rimane unita o no, signor Garibaldi? Che mi dice dai fondi di caffè? Assolutamente sì, assolutamente sì. Qui non c'è la Catalogna. I veneti chiamati al referendum per l'autonomia economica sicuramente, ma sull'italianità di questo paese io non ho dubbi. Perché allora io sono tranquilla, se me lo dice Garibaldi. Ma no, è davvero parente trisavolo, era Giuseppe Garibaldi il suo trisavolo. Allora, signor Renato Garibaldi, la ringraziamo. Guardate ancora che ci sono tanti ascoltatori sul tema di prima, ce n'è uno prima del traffico. Pino da Padova, buongiorno. Pino, non c'è più. Sì, eccoci. Dica. Io mi chiamo Guido, in verità. Va bene, giustamente, anche un po', se la chiamiamo Pino non risponde. Va benissimo, non c'è problema. Senta, io telefono per dare in fin dei conti un messaggio positivo, anche cioè il fatto che grazie a voi, grazie a internet, grazie a Gramellini, alla comunicazione, a fatti di questo genere quantomeno può essere data una diffusione e una conoscenza, e questo è un dato molto positivo. A me 19 anni fa è capitata una cosa analoga. Io ho trasportato un moribondo che aveva ingerito con una polmonite ab ingestis, aveva ingerito del cibo che era andato in trachea, l'ho trasportato dal Lido di Venezia a Padova a 220 km all'ora, avevo una macchina molto veloce allora, con una bombola di ossigeno sulle ginocchia, perché a Lido mi hanno detto che l'ambulanza sarebbe arrivata da Padova, io sono un medico, ho valutato la situazione, ho detto non c'è tempo, chiamate un elicottero, si sono rifiutati. Per cui ho preso la malata, l'ho caricata in macchina, l'ho portata all'ospedale di Padova. Tra l'altro a 220 chilometri, allora, rischiando lei, rischiando gli altri. Tutti, lei la... Abbaglianti accesi, bombola di ossigeno sulle ginocchia, malato sul sedile anteriore vicino a me, di dietro mia sorella, che pure è medico e che ha fatto la sua parte, al telefono con un collega, come siamo entrati, c'era il rianimatore. E ha salvato la persona. Io ho fatto una denuncia il giorno dopo, sono anche ricordi per me un po' pesanti da ricordare. Ho fatto una denuncia, sottoscrivendo nella denuncia che ho presentato ai carabinieri, che io non mi sarei costituito parte civile, perché non venisse a nessuno l'idea che fosse un gatto ai vinci, che io volessi tirare certo. il beneficio da queste cose. La cosa è finita assolutamente in nulla e il mio messaggio negativo sì. è che quantomeno la gente sa, però il messaggio negativo è che fra 20 anni questo procedimento forse sarà ancora in qualche scartoffia, ci saranno i sindacati sì, che dipenderanno di affatto, il giudice che dichiara la prescrizione viene trasferito. No, ma è chiaro, Guido, si fermi lì, è tutto molto chiaro. 20 anni infatti fa, è bene che se lei... ne parli in tutte sì, le però salse. Lei, medico, era anche in grado di intervenire, ma comunque la procedura era sicuramente sbagliata. E poi c'era un'altra persona. Sbagliata. Allora, il traffico, dai! Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... I funamboli. Ringrazio di esistere, siete il miglior programma della radiofonia italiana in questo momento, siete i migliori, quindi grazie Evaristo, grazie Maria, grazie soprattutto Luigi, vi ringrazio tantissimo, grazie, grazie. Infatti immaginavo quando ha detto il miglior programma Evaristo, avrà sbagliato, non intervenire Evaristo ma no, ha sbagliato, sarà il programma di qualche altra radio. Evaristo Beccarossi, una radio di calcio sì. Credevo fosse quello che avevo fatto il bonifico per il messaggio, no, invece non era lui. Leonardo Manera è arrivato. Buongiorno. Allora, avete parlato di sanità, mi è tornata in mente una mia vicenda di 4 anni fa adesso che citerei. Strano anche questo. Ho avuto un'operazione, dico anche dove perché insomma è tutto vero, proprio all'ospedale San Raffaele di Milano, un'operazione a una gamba, avevo l'anestesia spinale quindi sentivo quello che dicevano i medici mentre mi operavano. A un certo punto il medico mentre mi operava la gamba, mi dispiace dire una parolaccia ma l'ho detto veramente testualmente così, mentre mi operava diceva questo medico: mi sono rotto i coglioni di questa operazione, non c'è nessuno che può continuare. Ed è arrivato, aspetta, veramente è arrivato così. Il cuoco lui che se n'è andato, proprio se n'è andato, passava dai, di lì un altro medico, un ha detto, vengo io, pensa se passava un cuoco. È andato avanti quest'altro medico a farmi l'operazione, il tutto mi ha causato un problema alla gamba che dai, è andato ma avanti, non è vero, te Leo. Lo giuro, te lo giuro, infatti sto valutando se fare causa perché al di là del fatto che ma come poi... stai valutando? Sto valutando perché non ho voglia di mettermi in un altro problema giudiziario, però successe veramente. Io quanti dico che un medico di ma, e io scusami. Dico che un medico che mentre ti sta operando, ma io veramente è successo così, dice queste parole, beh. Può anche darsi che non incida poi sul buon esito dell'operazione il fatto che poi arriva un altro a continuare, ma già il fatto che dica così è scorrettissimo nei perdonami confronti. Ma tu eri sveglio? Eh certo, perché avevo l'anestesia spinale con la spinale e non sei intervenuto, non hai detto ma abbia pazienza, ma guardi che io la sento. Ma no, io ero lì sotto il bisturi, mi stavano tagliando tutto, cosa mi metto a litigare mentre l'anestesia spinale col medico. Sicuro. Scusi, ma, no, rimanga qui, ma, per favore, finisca il suo lavoro, e lui come se si permette. Arrivava un altro che non sapeva che operazione esattamente stava, poi l'operazione bene o male sono sempre quelle, ma è arrivato quest'altro, dice, beh, vengo io, sai come il primo che capita, non è arrivato quest'altro. Vabbè, Leonardo, eccoci qua, dai, che ci vuoi dire? Non questo, spero. No. Vabbè, questa però, io, anche se ce ne hai diverse di faccende giudiziarie, io ricorrerei, ecco, farei qualcosa. Le ascoltiamo tutte, una al giorno. È così, cari miei, però questa è l'Italia. Ieri mio figlio invece mi ha fatto una domanda spinosa. Mio figlio ha 8 anni, cominciano ad arrivare le domande un po' difficili, no? Sì, cioè, sì, ci sono domande alle quali rispondere è difficilissimo, anche se è un papà. E mio figlio mi ha chiesto: papà, cos'è l'Italia? Anche a domande così è difficile rispondere. Allora, avrei potuto dire: l'Italia è un paese meraviglioso dove ti operano bene, tra l'altro, dove si verifica la sanità, migliora al mondo, dove si verificano eventi incredibili come il sangue di San Gennaro che diventa liquido, Alfano che diventa ministro, Verdini che a volte decide le sorti del governo, ma ci siamo abituati. Allora, in verità la Repubblica Italiana comincia a nascere il 2 giugno 46, quando praticamente per la prima volta dal 1924, pensate, gli italiani vengono richiamati alle urne per un doppio voto, scegliere tra monarchia e repubblica ed eleggere l'assemblea costituente. Nel sud vince la monarchia, nel nord la repubblica, poi sono tutti in piazza a festeggiare, 54% che ha votato per la repubblica, ma anche quelli che hanno votato per la monarchia. Gli unici che non ci sono i fascisti. perché ormai in Italia dal 1946 di fascisti non se ne trova più neanche uno, cioè ce n'erano meno dopo la guerra in tutta Italia che adesso solo a Ostia, per dire. Si forma l'assemblea costituente che finalmente deve definire cos'è l'Italia. L'Italia non è più una monarchia, è una repubblica democratica, e due sono le caratteristiche della repubblica: l'elettività, cioè per rappresentare gli italiani bisogna essere eletti, come ha fatto Renzi se non sbaglio, e la temporaneità delle cariche pubbliche. Bisogna essere eletti, e da lì tutti i problemi che ci sono ogni volta per decidere la legge elettorale. Sarebbe stato più semplice se la Costituzione avesse previsto il sorteggio, abbinavi anche un'estrazione come Superenalotto, lo Stato incassava anche qualcosa. Invece, per quanto riguarda la temporaneità, ormai ho capito che in Italia non sempre si può avere, perché ho capito che in Italia, per esempio, un Casini è per sempre. In più, l'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro ed è l'unica fra le costituzioni occidentali che al primo articolo cita il lavoro. La Costituzione americana non ne parla, quella tedesca non ne parla, quella francese non ne parla, ma è giusto che l'Italia abbia scritto al primo articolo che l'Italia è fondata sul lavoro, perché è un auspicio, è una speranza. È come uno che si vanta al bar, così tu italiano puoi andare in Germania e dire sì, voi il lavoro ce l'avete, ma noi ce l'abbiamo scritto in Costituzione, tiè, che è una bella soddisfazione. E per finire, al secondo comma, l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo. Il verbo appartiene è bellissimo, perché significa che appartiene a tutto il popolo italiano, non solo agli elettori, a tutto il popolo, uomini, donne, bambini, neonati, e non gliela si può togliere, nessuno può togliere questa sovranità che appartiene, appartiene anche a quelli che non vanno a votare, anche a quelli scettici come me. La sovranità appartiene al popolo, dice l'articolo 1, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè con la democrazia rappresentativa, cioè con tutti quelli che ci rappresentano oggi. E non c'è sempre da stare allegri, ma li votiamo noi, quindi non ci possiamo lamentare quando li abbiamo votati. Domani andrò da mio figlio Beniamino e gli dirò: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Sì, l'Italia è questa, o meglio sarebbe questa se la Costituzione venisse applicata. Ma ti stanno chiamando da San Raffaele, guarda che il dottore, no è vero, cioè, sta squillando il telefonino di Manera. È il diritto alla salute, c'è anche il diritto alla salute, credo. Ma come va la gamba adesso? Guarda, ho avuto problemi veramente per 2 anni. Va bene, dai, ce li racconterai nella seconda ora dei Funamboli. Dobbiamo andare al giornale radio. State con noi! Sei single e cerchi un piatto sempre pronto da rovesciare senza pretese nello stomaco? Allora acquista il tonno Caporetto. Il tonno che non richiede l'uso di grissini perché è già a pezzi, nella scatola, e proviene da tonni di esperienza. Tonno Caporetto è il tonno per single, adatto a ogni occasione. Un sandwich con pane duro o una cena da solo davanti alla TV, senza nessuno. Allora non pensare al passato che non ritorna, non pensare agli amori finiti e consolati col tonno Caporetto, il tonno del single che non ha pretese, ma solo rimpianti. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. I Funamboli. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Ma signori, voi siete mai stati a Zurigo, dove rischi di prendere una multa anche solo per uno specchietto retrovisore fuori dal parcheggio? La multa che ha ricevuto questo signore è sacrosanta. Ma lo dico io cosa pensa il signor Garibaldi, perché magari lui non lo può dire. Pensa che qualche vigile urbano gli abbia fatto la multa dicendo: guarda sto stronzo che aiuta il neger, tutti sti qua migranti, ora gli faccio la multa io. Cosa cavolo c'entra la multa con il discorso che lei trasporta i migranti? Ma cosa cavolo c'entra? I nostri ascoltatori al 349-238-6666. Sempre la meglio, sempre no, meglio. La vedono. No, ma sono il nostro bottino di guerra. Certo, dico, però. Sono i nostri idoli. No, i nostri... Sì, sì, però insomma le opinioni sono completamente divergenti e non danno uno spettro, diciamo, particolarmente. Più che altro si sono focalizzati più su quell'aspetto lì che sul fatto che gli facciano la multa se lasciano il finestrino aperto. No, perché a Zurigo è giusto! A Zurigo è sacrosanto. A Zurigo è giusto che tu prendi multa se lasci il finestrino aperto. Ma tu lo sai che io magari la Svizzera... Ancora, io adesso ti garantisco che la prima volta che tu ti dimentichi un pezzettino di finestrino aperto, io lo vedo, chiamo il vigile, ti faccio fare la multa e poi tu dopo devi cantare le lodi della Svizzera. Stamattina io in metropolitana invece ho avuto l'invasione dei tedeschi. C'erano queste scale mobili. No, davanti alla porta con i loro zaini grossi che mi impedivano di uscire. Quindi non sempre il nord europeo è così. Perché quando si spostano e vengono però qui adottano i costumi locali. Lorenzo da Arezzo, buongiorno Lorenzo. Eccolo qua, senti che bel suono da Arezzo che viene. Bello, bello. Lorenzo, niente, è caduto. Gianni da Treviso. Pronto? Eccoci. Pronto? Gianni, eccoci. Sì, buongiorno. Volevo fare due considerazioni sulla notizia del papà che aveva la bambina che aveva ingerito una pila e per il problema dell'ambulanza. Prima considerazione. Sì. Io ho due ragazzine, sono un papà anch'io, e è successo anche a me di andare in un ospedale anche con fratture scomposte, con ossa in evidenza, no? E andare nell'ospedale sbagliato. Non a Treviso, ma eravamo in trasferta per un evento sportivo. Si è fatto male un'amica di mia figlia, l'ho portata io in ospedale perché in quel momento l'ospedale si è detto non abbiamo l'ambulanza. Arrivati in ospedale, l'ospedale era quello sbagliato, c'era l'urologia, era da un'altra parte, abbiamo dovuto ricaricare la ragazza senza neanche un antidolorifico, con un osso fuori dalla tibia. Accidenti. E siamo andati fino all'altro ospedale che era a 20 km di distanza. Per cui è una cosa, come dire, che in Italia... è abbastanza si sa, la questione in più è che qui gli hanno proprio allestito la macchina come fosse un'ambulanza, cioè siccome non ce l'abbiamo faccia l'ambulanza. Perfetto. Ecco, questa seconda considerazione. Ma... la notizia, allora io ieri ho letto la stampa riportava diciamo quello che era successo al pronto soccorso. Sì. Sì. È entrata, non aveva carenza di ossigeno, non aveva nessun tipo di sintomo, cioè era sintomatica, cioè non gli dolorava niente alla bimba e non aveva sostanzialmente niente finché non gli hanno fatto i raggi e hanno visto una moneta che probabilmente è una pila piatta, posso immaginare. Vabbè, ho capito. Quindi... poi ha iniziato a vomitare in ospedale la bimba, però l'ho detto all'inizio. Ce l'ha detto prima, ha vomitato momento, in ospedale. Sì, ma... no, ce l'ha detto prima, lei deve leggere il resoconto del pronto soccorso. Ma non stiamo facendo un processo, che me l'ha detto scusi, prima che non dell'articolo, no? Non stiamo facendo il processo poi adesso, comunque una pila è, ripeto, è una delle cose più gravi per le quali intervenire in maniera rapida perché rilascia degli acidi. Ma anche fornire dei vestiti, no, da operatore sanitario a una persona che non è in grado, come se improvvisamente diventasse un'ambulanza, è una cosa che non è ortodossa. Comunque, non si può fare. Non è che dobbiamo fare il processo o capire a chi credere. Insomma, noi abbiamo raccontato questa vicenda di cronaca. Dai, però è il momento, alle 10-12 minuti, siamo sempre in gravissimo anticipo, come al solito, per il funambolo del giorno. Anticipo. Giovanni. Cognome. Saggio. Età. 53 anni. Professore di ingegneria elettronica, ha creato un software capace di individuare infezioni o malattie attraverso un'analisi della voce. Mi verrà la sindrome da ritardo cronico, una cosa che Veronica Gentili non può capire, essendo donna poi a Roma, insomma, no, abituata. Io non faccio mai ritardo. No, mai. No, davvero non. Adesso proprio... mando i messaggi ai romani, dicono che sei leghista settentrionalista. Leghista settentrionalista. Non mi capita mai. No, vabbè, io ho una patologia. Vabbè, lasciamo. Professore ingegner Giovanni Saggio, buongiorno e grazie di essere con noi, professore a Tor Vergata. Buongiorno. Piacere essere con voi. Ha inventato questo sistema che attraverso un computer, sì, un algoritmo, attraverso ascoltando le voci delle persone, analizzandole, può trovare le infezioni. Ma è molto curiosa come vicenda. Sì, cioè? Una idea di poco tempo fa, abbastanza recente, si parla del 2014. Uh-huh. E sono stato capace di analizzare centinaia di pazienti, in particolare è stata nata da una collaborazione con 4 ospedali in India, adesso lo stiamo facendo anche qua a Tor Vergata al Policlinico, e ci siamo accorti che ognuno di noi ha una voce che è una sorta di firma della persona, nel senso che tutti abbiamo un corpo, due braccia, due gambe, una testa e così via, però Le piccole differenze che ci sono tra una persona all'altra fanno sì che la nostra voce sia tipica, cioè persona per persona. Quando noi incontriamo una persona, se chiudiamo l'occhio e ne sentiamo semplicemente la voce, la riconosciamo, certo, perché la voce è tipica di quella persona. E la malattia cambia questa voce, questo timbro? La malattia, esattamente, le patologie cambiano piccoli dettagli che però si riflettono nella voce. Un po' perché come, la voce, pensiamo, ingegnere, non dipende soltanto dalle corde vocali? Non dipende assolutamente solo dalle corde vocali. Immaginiamoci un violino. Il violino genera il suono che conosciamo. Tutti i violini sono uguali, fatti tutti nello stesso modo, con la stessa geometria, la stessa dimensione, ma un violino suona in maniera diversa da un altro. Uno Stradivari, un esperto, lo riconosce bene. Certo. Perché il tipo di legno, la stagionatura, il trattamento che ha ricevuto, le corde e così via, fanno sì che quel violino suoni in maniera caratteristica di quel violino. Ora, se io prendessi uno Stradivari e gli facessi un piccolo danno, quel suono cambierebbe. Ma per esempio come cambia la voce di un malato? Cioè che cosa accade di diverso? Degli esempi di casi in cui si sente che c'è un'anomalia? Sì, e poi soprattutto bisogna confrontare il prima e il dopo della voce o basta sentirla quando c'è già l'infezione per capire che qualcosa non va? Bellissima osservazione. Allora, si può ragionare in due modi diversi, ossia possiamo guardare la storia di una persona, quindi misurarne la voce per un certo periodo di tempo e vedere quali sono i suoi parametri caratteristici. Dopodiché, finito quel periodo di tempo, se si va oltre quel periodo, per esempio 6 mesi, se si va oltre 6 mesi e si vede che c'è qualche cosa che sta cambiando, allora in rapporto a quello che avevamo misurato prima sappiamo qual è la causa che ha cambiato quel parametro. Oppure lo si può fare in confronto di una popolazione. Io faccio l'esempio dell'analisi del sangue. Quando ci andiamo a fare l'analisi del sangue sappiamo che ci sono tanti parametri che il medico lo controlla, i globuli rossi, il pH, le piastrine e così via, e quei parametri sappiamo che devono stare all'interno di un certo range, di un certo intervallo. Se uno di quei parametri esce fuori intervallo, il medico sa qual è la causa che ha generato quella variazione. Ma quindi la registrazione della voce può diventare come una sorta di cartella clinica che tu porti con te, cioè a distanza di 6 mesi, un anno, io risento la voce e sento che cosa cambia. Bravissima, esattamente. Quindi della stessa persona possiamo vedere le variazioni. Oppure possiamo confrontare la voce di quella certa persona con la media delle voci delle persone analoghe. Intendo per persone analoghe le persone che hanno la stessa fascia di età, lo stesso sesso e la stessa etnia. Se faccio questo confronto so capire qual è il problema di quella persona. Interessante questo. Ma che tipo di malattie si possono individuare attraverso questo esame? Allora, noi per ora ci siamo focalizzati su tubercolosi, diabete, bronchiti, febbre virali, che è un problema che lì hanno forte in India, qui in fortunatamente India, la ci abbiamo meno, otiti, riniti e faringiti. Ora ci stiamo focalizzando a Tor Vergata, presso il policlinico appunto della mia università, ci stiamo focalizzando invece sul Parkinson, perché la voce parrebbe essere uno di quegli indicatori primordiali dell'insorgere del Parkinson. Quindi Parkinson, per prenderlo in una fase iniziale proprio embrionale della malattia. Ma questo anche per evitare esami più invasivi, cioè l'utilità quale è? L'utilità è che si possono fare riscontri quotidiani. Voi immaginatevi per esempio un'app per smartphone, no? Che ci misura la voce tutte le volte che parliamo. E la differenza è che noi tutti dovremmo fare degli esami clinici periodici, che ne so, a intervalli di un anno, chiaro, per capire se abbiamo qualche problema, no? Ma di fatto nessuno poi li fa, o quantomeno pochi sono quelli che vanno a farsi questi controlli. Invece al telefono parliamo quotidianamente per parecchi minuti al giorno. Quindi un automonitoraggio, allora, della malattia eventuale? Un automonitoraggio dello stato di salute del certo, corpo. Certo, sì, in questo senso. Se c'è uno dei parametri vocali che esce fuori range, sappiamo qual è, può esserne la causa. E bisogna andare a fare un controllo. Il cuore, quindi. Fantastico. Ma attenzione, la causa può essere o di specifici organi, quindi dipendente dal cuore, dipendente dai polmoni, dipendente dal fegato e così via, oppure dipendente dallo stato mentale, perché la mente influenza in maniera decisa la qualità della voce. Quindi un Alzheimer parla in maniera diversa durante la malattia piuttosto che prima della malattia. Parkinson è la stessa cosa. E quindi questo può voler dire fare un controllo quotidiano, costante. Tenere sotto controllo, ma è interessantissimo. Veramente interessante. Grazie. E immaginate per esempio quello che può succedere quando dobbiamo fare uno screening a ampio spettro, che so io, sbarcano migranti quotidianamente sulle nostre coste a decine o centinaia. Ecco, farne uno screening sanitario sarebbe importante, perché possono arrivare delle patologie che occorrerebbe intercettare in tempo. Ecco, questo screening è impossibile, perché non possiamo pensare di fare analisi del sangue. Ma secondo lei questo porta anche un grosso risparmio di costi eventuale? Nel senso che se questa cosa venisse diffusa, per esempio l'esempio che lei fa dei migranti, è un risparmio enorme, può essere? Assolutamente sì, per due motivi. Il primo, perché si possono fare degli screening appunto a bassissimo costo e a larghissimo spettro, con costi praticamente risibili. Il secondo è perché, potendo intervenire molto in anticipo rispetto all'incipit della malattia, rispetto all'inizio della malattia, sappiamo bene che il medico prima riesce a intervenire e meglio riuscirà a curare, con tempi minori e costi minori. Allora, ingegner Giovanni Saggio, noi la ringraziamo perché ci ha aperto anche un mondo che fino a poi direi anche di tranquillizzare invece tutti quelli che magari hanno solo un abbassamento di voce stagionale e non hanno la tubercolosi. Probabilmente riusciamo a distinguere questo, se il cambiamento di voce, perché il cambiamento di voce può dipendere anche dallo stato d'animo, no? Uno stressato, uno allegro, eccetera, può cambiare voce. Naturalmente i parametri che cambiano sono diversi rispetto a quando si ha una patologia. Noi la ringraziamo, la ringraziamo molto, Giovanni Saggio, ingegnere elettronico, professore a Tor Vergata, che forse anche la medicina del futuro passa attraverso questo, sicuramente attraverso l'uso della tecnologia. Dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Ma pensa, per i conduttori radiofonici, quante informazioni rivelatrici. Infatti, guarda, lo sapevo che l'abbiamo risparmiato a dire senta un po' la mia voce. No, vuoi sapere quanto mi sono tenuta, pure Leonardo, immagino. Ma lei sente qualcosa di strano? Ma secondo lei io... Andiamo al traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... I funamboli. Dottor Milan, ma scusate, noi ce la prendiamo con i poliziotti per queste multe, ma le leggi chi le fa? Le fa o non le fanno i parlamentari, di cui molti sono indagati per mafia? Chi è che le fa? O le fanno i cittadini? Chi è che fa le leggi in Italia? Adesso, molti parlamentari indagati per mafia io non ne conosco. Adesso fermiamoci un attimo con le parole. Magari qualcuno c'è stato, però sembra fatta apposta questo WhatsApp adesso. Le leggi. Anche qui che hai fatto? Hai pagato l'ascoltatore per farti introdurre il tema? È che noi siamo avanti, siamo sul pezzo. Siamo la migliore trasmissione del mondo, caro Luigi, caro Evaristo. Cara Giulia. Maria. Cara Antonia, come ti chiami tu? Maria! Maria sono io, Alessandro Maria. Io sono Alessandro, non lo sapevi? No, questa? Maria sono io. No, Alessandro Maria. Ma certo, io mi chiamo Alessandro Maria. Non ne avevo contezza. Questa duplice personalità. Ti chiami Bonetti e ti fai chiamare Manera. Stai zitto. A partire da oggi, dottor Bonetti e signor Alessandro Maria, sarò tesa ad appellarvi in codesta maniera. Io dico, ho scelto Manera perché è un po' spagnoleggiante, esotico. Ecco. Manera, flamenco de Manera. No, dobbiamo spiegare perché questo WhatsApp è proprio indicato. Le leggi, quante ce ne sono in Italia? Lo chiediamo intanto ad Alfonso Celotto. Secondo me lo sa, lui insegna Roma 3, è all'alter ego del dottor Ciro Amendola, scrive libri su questo. Celotto, quante sono le leggi in Italia? C'è un numero preciso? Buongiorno. Ai sensi della normativa vigente. Poi, sì, buongiorno, dottor Ciro Amendola risponde sempre così. Esatto. Allora, questa è una domanda che mi ricorda la domanda che faceva Raffaella Carrà sui fagioli, no? Sì, fagioli, sono certo. I fagioli in questo baratto. Come no, certo. Ti sta dando della Raffaella Carrà, sì, esatto. No, è un complimento. Ma certo che è un complimento. E quante sono? Basta guardarlo, Carrà, è un complimento, sì. Allora, parecchi anni sono di studio per saperlo, perché noi diciamo che fino a una quindicina d'anni fa girava i numeri più vari, andando a leggere i manuali, i libri, 10.000, 100.000, 1 milione, veramente c'erano numeri assurdi. Poi invece c'è stata un'attività ministeriale serissima per contare le leggi . E quindi si sono scelti dei parametri, innanzitutto solo quelle statali, quindi dello Stato, okay, non le regionali, dell'Unione Europea e così via. Poi da quando? Dal 17 marzo 1861, data di insediamento del Regno d'Italia, e si è contato che leggi, decreti legislativi, quindi tutti gli atti con forza di legge da allora, sono il numero incredibile di 186.347. Tra l'altro restano in vigore fino a quando non vengono formalmente abrogate, oppure quando c'è una nuova legge che di fatto sostituisce la precedente. Nei secoli. Io me lo sono segnato. 186. Per riuscire a rispettarle tutte praticamente è un terno all'otto. È impossibile. Ecco. No, e tra l'altro anche perché molte non si conoscono e molte poi sono scritte in maniera così confusa, astrusa. Per esempio, del finestrino aperto, non so se ha avuto modo di sentire poc'anzi, quello è il codice della strada, ero curiosa di sapere, quello è il codice della strada, è chiaro, è una legge statale. Per modificare una legge come quella che si fa? Uno se la tiene così finché in Parlamento, finché servirebbe un altro atto con la stessa natura, quindi servirebbe un'altra legge. Comunque noi siamo pieni di leggi, è una cosa incredibile, siamo pieni di leggi assurde, ci mancano leggi necessarie, questa è un'altra cosa. No, tra l'altro dice una cosa giusta Celotto, sono scritte in un modo un po' strano, tanto che noi abbiamo chiamato Dario Mantovani, insegna diritto romano all'Università di Pavia e coordina il primo master dal titolo La lingua del diritto. Professor Mantovani, buongiorno. Buongiorno. Perché voi vorrete proprio, di fronte all'indecifrabilità, in alcuni casi della lingua italiana, nelle leggi, insomma, cambiare questa situazione. Ma perché sono scritte così male le leggi, professor Mantovani? Perché la lingua del diritto è l'italiano e quindi per parlare appunto del codice della strada o di qualsiasi altro argomento anche tecnico dobbiamo usare la stessa lingua che usiamo tutti i giorni per parlare tra di noi, fra amici, in radio, per parlare nella famiglia. Dunque, qual è la lingua che si utilizza per scrivere le leggi? È proprio questa, abbiamo solo una lingua, l'italiano, e dunque dobbiamo cercare di rendere al tempo stesso preciso l'utilizzo del linguaggio, ma sapendo che non esiste un linguaggio specifico, insomma in poche parole, dobbiamo cercare di trovare un punto medio tra la precisione che è richiesta al diritto e la comunicabilità. Ma sono scritte in italiano le leggi? No, questa è la cosa. Sono scritte in italiano, ma l'italiano non è una lingua, diciamo, non esiste un italiano del diritto. Prego. No, non esiste un italiano specifico del diritto, dobbiamo pescare all'interno dell'italiano che usiamo tutti i giorni l'espressione giusta per spiegare concetti molto complicati. Però per esempio ci sono termini giuridici che difficilmente possono essere tradotti con un italiano corrente, anche semplicemente di alcuni istituti, no? Per esempio, che ne so, l'abigeato, l'anatocismo, esatto, queste parole poi come si fa a tradurre in un italiano corrente? È difficile. Questo secondo me è il punto essenziale. Quando si parla della lingua del diritto si tende solo a mostrare gli aspetti negativi. In realtà la lingua del diritto è una lingua di cultura molto sviluppata che ovviamente parla di cose che non esistono, perché certo, l'abigeato non si tocca, l'usufrutto non è un concetto che si incontri per strada, perciò bisogna usare dei termini che creano queste realtà. Che aiutino anche a visualizzare, perché io mi chiedo come effetto collaterale del relegare un po' la legge tra le astrusità a livello proprio di dialettico, linguistico, non aiuta un po' inconsciamente a far sentire sollevati i cittadini dalle responsabilità, cioè come se li allontanasse? Ha ragione, diciamo che naturalmente non è forse attraverso le leggi che si sollecita il senso morale, l'adeguamento. In fondo le leggi intervengono solo quando c'è qualcosa che non va. Forse il problema principale oggi è che le leggi si occupano di tutto e parlare di argomenti molto tecnici significa importare nel linguaggio della legge anche altri linguaggi, che ne so, quello dell'ingegneria, delle telecomunicazioni. Ecco, è questo il problema, il contatto fra tutti questi linguaggi. Un tempo, quando si limitava a regolare i fatti della vita, le leggi erano più semplici. Sì, erano più semplici e scritte in maniera semplice. Infatti voi a Pavia volete fare questo master per farle scrivere in maniera semplice. Sostanzialmente però, degli interpreti della legge. Sì, però Celotto, fatto, cioè al di là dell'utilizzo di parole come diceva Manera, abigeato, usufrutto, difficilmente traducibili, c'è anche il fatto che proprio le leggi sono scritte con dei mille rimandi, con incise, con rimandi ad altre leggi, cioè proprio sono anche scritte, non dico coi piedi perché saranno perfette dal punto di vista del legalese, però non si capisce nulla. Gian Antonio Stella ci ha scritto degli articoli meravigliosi, il dottor Ciramendola ci ha costruito una carriera sul fatto di scrivere leggi che nessuno capisce, o no, Celotto? Un attimo alti, no? Citiamo Calvino. Calvino nel 65 scrive questo bellissimo pezzo sull'antilingua, no? Recitando: il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto, questa è la famosa traduzione in giuridichese, in antilingua, della denuncia fatta dal cittadino al brigadiere. Sì. Pezzo famosissimo di Calvino del 65. Perché? Perché il diritto si protegge e si ammanta in questa antilingua, in questo burocratese, e le leggi cadono pienamente nel tranello dell'antilingua. Una sola legge è scritta in italiano corrente ed è la Costituzione. Ma perché? Perché in Assemblea Costituente sedeva Concetto Marchesi, che era uno dei massimi linguisti dell'epoca, e che cosa prese proprio un impegno in Assemblea Costituente? Perché la Costituzione deve parlare ai cittadini, in quanto era un'Italia di analfabeti che usciva dalla guerra, per cui serviva un testo legislativo semplice che parlasse a tutti. E allora cosa prese? Ha preso questo impegno in Assemblea Costituente. Innanzitutto frasi mai superiori a 20 parole, frasi che non contenessero mai più di una sola subordinata e prevalentemente uso di parole di senso comune. Che dovrebbe essere la base per una proprio legge. La funzione legislativa. Capito. Sì, però a quel punto l'articolo 70 della Costituzione, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, punto. Lo capiscono tutti. Poi in realtà la Costituzione, che appunto è scritta in italiano più comprensibile, però a sua volta delle parole molto precise, ne parlavamo prima, quando dice la sovranità appartiene al popolo, appartiene è una parola molto forte, non deriva dal popolo, eccetera. Quindi è stata fatta una scelta proprio precisa. Perché c'è una differenza tra la precisione linguistica e invece l'utilizzo di termini che diventano desueti. Sono d'accordissimo, però la sovranità appartiene al popolo, rispetto alla sovranità è del popolo, ha tutto un altro senso, per dare proprio la profondità della risalenza storica della sovranità. Quindi è giusto utilizzare parole un po' più desuete, un po' più particolari, però è improprio scrivere la sovranità di cui è l'articolo numero del, per come modificato, viene riconosciuta al popolo secondo cui, a quel punto non c'è capito più nulla, no? Ma non è un modo per mantenere anche un po' un privilegio di casta, come fanno anche i medici nel loro linguaggio? Io volevo chiedere questo, ma professor Celotto, secondo lei la volontà anche di incutere un po' di timore al cittadino mediante una lingua che sia un po' opaca, poco comprensibile, non c'è? Mi fate venire in mente l'immagine dei sacerdoti sulle piramidi Maya, no? In mezzo ai fumi dall'alto. Sì, esatto. È calata dall'alto e non è chiaro bene cosa cadrà su di te. Don Abbondio in latinorum, no? Perché la messa veniva recitata in latino? Perché deve essere questo linguaggio degli iniziati. C'è quindi sicuramente la base secondo cui ciascuna disciplina ha la sua lingua che conosco solo io. E quindi i medici, gli avvocati, i sacerdoti, tu cittadino comune vai da loro, che sono grandi oracoli che ti pronunceranno le loro parole sagge e miracolose. Faccio, voglio fare un esempio. Atto di fede, no? Voglio fare un esempio, perché dobbiamo andare alla borsa. L'esempio è quando un funzionario, fu intervistato da Gian Antonio Stella, Vincenzo Lissa, esaminò una domanda rispondendo così: sulla stabilizzazione di alcuni lavoratori socialmente utili. Ho letto lo scritto emarginato in epigrafe con tutta l'attenzione che ha meritato. Nulla più vediamo elenticamente, perché da essa viene in emersione una apodittica concezione del diritto immaginato come un'astrazione da investire acriticamente. È meridianamente epifanica l'indifferenza contenutistica che implica meccanicisticamente un calco a rime obbligato, la devozione al culto. Vabbè, continua così. E dopo così, questo non tu che fai? Ti permetti di replicare? Dopo quello che ho detto questo tu dici no, ha ragione lei, abbia pazienza. Obbedisco. Con la parola. Obbedisco. Che cosa debba fare non lo so, ma io faccio quello che ha detto lei. No, però ringraziamo Alfonso Celotto e Dario Mantovani, professore di diritto, lanciano a Pavia il primo master per scrivere le leggi che si capiscano, ecco, in modo che si capiscano. Però epifanica è bella la rivelazione. Epifanica, bella. Dai, c'è la borsa. I funamboli. siccome io guido con il bambino di un anno e mezzo, cioè praticamente guidiamo tutti e due, me lo tengo fra le gambe, cioè sulle cosce, siccome devo venire al nord, ma per caso ti facciano la multa se guidi così? Perché a me due i vigili non dicono nulla. Amico mio, fai il bravo, neanche per scherzo, neanche per scherzo. Il nostro amico, secondo me è Irzak, credo, da Santeramo, il nostro, nostro amico camionista albanese di nascita, ma ormai di Santeramo. Non attribuire responsabilità, no, a meno che tu non sia certo. Irzak, fatti vivo con un messaggio WhatsApp a dire sì, sono io, che così noi capiamo e ti mandiamo in onda sempre. Ale, ma stavo ascoltando la tua voce. Senti, eccola, sento lì, strano, non è... ti sei fatto lì vedere ultimamente? Eccola lì, eccola lì. Perché... No, allora, pensavo, pensate agli ipocondriaci se gli dai un'app in cui dalla voce si sente come stanno. Oh, praticamente guarda, una fortuna, giornata intera attaccati al cellulare a dire allora ti volevo dire. Il problema è che qua ne abbiamo uno, Leonardo Manera, ecco. come va? Tu se viene quest'app, se guarda, quest'app. Io ti dirò che invece è un bel periodo lungo che non assumo più nessun tipo di farmaco, di medicinale. Se non sto fai veramente... subito le corna, abbi santa pazienza. Cioè, non vorrei giorni? Fare subito la scaramantica. Sono tre anni. Oh. Non assumi medicine da tre anni. Beh, più o meno sì, sai, diciamo medicine vere, così, poi una serie di cose inutili, sì, le prendo, ma proprio per il gusto dell'inutilità, del placebo. Mm. Oh, ma come si può non prendere medicine per tutto questo tempo? Questa è un'assolutamente assuefatta, vabbè, non si deve dire, vabbè, aziende farmaceutiche, non diciamolo, però... Non diciamolo, così. Si sa, sei nella lobby delle aziende farmaceutiche. Sono che completamente ti pagano, nella lobby. Ti pagano. No, mi hanno proprio ipnotizzata, concupita, sì. Cioè sono io che butto i miei soldi. Allora, un'altra cosa. Vogliamo riprendere, ripristinare questo momento eccezionale. Questo che, momento che ci porta in giro per il mondo, perché è il momento di convocare gli ascoltatori dall'estero. Vi mancava, Non ballare. Vi mancava. La sigla. Non ballare. Con Prince, che non è Prince, ma forse è Prince. C'è Silvana che ci ha scritto. Ha scritto una mail a funamboli@radio24.it. Silvana, dove ci porti? Ciao a tutti, io sono a Parigi, sono al 18° arrondissement, sotto a Montmartre. Come va lì a Parigi? Che ci fai, Silvana? Allora, intanto sono due mesi che sono qui e vi sento tutte le mattine perché siete l'unico aggancio d'affetto che ho con la mia terra. Che bello, oltre a qualche parente, qualche amico. E vi sento benissimo, è fantastico, è sono stupendo. Così contenta di sentirvi. Si sente bene? Si sente meglio a Parigi che a Vigevano, a quanto pare. No, spieghiamolo, come ci ascolti? Con la app sui social o sul sito internet, come ci ascolti? Con l'app. Ma perché nei bar di Parigi non trasmettono i funamboli? È strano questo. Le funambole. Non tempo, perché vi spiego il motivo per cui sono qui. Io sono qui a fare la nonna babysitter a mia figlia che lavora a Parigi e quindi accudisco i miei nipotini, Isabella e Ludovico. Quindi praticamente hanno chiesto il ricongiungimento familiare con la nonna perché la nonna si possa occupare dei piccoli. Brava. Ma lei parlava già francese o ha dovuto imparare? No, guarda, io parlo il francese scolastico, ma mi capiscono benissimo. Dico qualcosa in francese, così. Je suis. Non pouvons parler. Comment ça va vous? Comment ça va? Ça marche en France? Ça marche. Anche gradevole oggi. Oh, e questo è bello. E comunque volevo dirvi una cosa. Sono in una zona multietnica dove ci sono tantissimi stranieri. In varie parti avevo letto che era una zona poco raccomandabile, piena di gente strana, invece sono tutti gradevolissimi, sono persone disponibilissime, sempre sorridenti, la maggior parte sono africani, ma ormai francesi ovviamente. Certo. E io mi trovo benissimo. Si trova posto. Bene. Poi c'hai i nipoti, ma Silvana, ma esatto, è nel posto migliore del mondo. I nipotini sono bilingue ovviamente. Sì, sono bilingue dalla nascita loro, perché la mamma ha frequentato una scuola francese e quindi hanno sempre ascoltato la mamma parlare francese. Però Silvana le è andata bene, la nonna in Francia, vado a fare la nonna a Parigi. Non non è male. Ho capito, ma ti fermi quanto, Silvana? No, è questo il punto. Questo è il bello della diretta, è che io non so fino a quando dovrò fermarmi. E quindi adesso sono un po' così, un po'. Ogni tanto vorrei tornare a casa mia. Eh sì, ecco, diciamo così. Però nel frattempo, anche da Parigi, ascolta Radio 24, ascolta i Funamboli. Datene certi, lo farò sempre. Ma che bello, sempre. Sembra la nostra... Siete la nostra... troppo simpatici. Sembra la pubblicità. È tutto interessante. Sì. Le vostre trasmissioni sono tutte, tutte interessanti. Perfino Manera, perfino Leonardo Manera, perfino non ci credo. Manera. Silvana, non ci credo. Perfino non ci credo. Manera. Vengo a Parigi e mi fidanzo con lei, Silvana. Bene, subito. Sono qui, l'aspetto. È caduto il gelo su questa proposta. No, è stato anche cortese, ha detto sto qui l'aspetto, faccia qui, come crede. Sto qui l'aspetto, ma non dirà mai l'indirizzo. Silvana, un grande abbraccio ovviamente, se anche voi ci ascoltate dall'estero, da posti anche più improbabili o lontani di Parigi, scriveteci funamboli @radio24.it. Se foste a fare i nonni a Timbuktu potete per raccontarcelo. Esempio, anche, perché no? Comunque ragazzi, c'era un messaggio che meritava di essere letto. In attesa al San Raffaele di intervento alla prostata, pretenderò l'anestesia totale. Grazie Leonardo Manera. Questo meritava di essere letto, perché pensa allo stato di panico in cui abbiamo mandato questo. No, non voglio mettere panico. Io ho raccontato solo un episodio che è peraltro veramente mi è accaduto, ma con questo non voglio dire che sia una prassi, ecco. No, uno dei centri d'eccellenza italiano, diciamolo, dai. Al traffico andiamo alle 10:47. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i Funamboli. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. E buongiorno Milan, ma come parla bene in francese Veronica, bravo, bellissima. Io so chi è. È Marie-Françoise che ci ascolta sempre da Monte Carlo e va in giro con la sua Ferrari. Ciao Marie-Françoise. Merci beaucoup Marie-Françoise, tu es très gentille. Tra gentili ci si intende, non è vero, l'ho detta. Ah, che battutona, mi è venuto freddo. Allora, Veronica è venuta a trovarci con grande passione, come sempre, Battista. Sono Battista, buongiorno, da Cavaillon. Ma io, salve, gentile, onesta pare, non capisce. Ma io sono anche imprenditore, sono andato a produrre estero, perché in Italia il governo ti chiede le tasse ma non ti dà i servizi, no? Come anche voi ogni tanto parlate, no? Se hai bisogno di fare una lastra in ospedale pubblico ci vogliono 5 mesi, un'ecografia 6 mesi, se devi fare un parto ci vuole 9 mesi di attesa, capisci Mina? Sì, più o meno. Non hai servizi adeguati. E poi ogni bambino che nasce ha già sulle spalle 10.000 euro di debito pubblico. Ormai la prima parola che dice il bambino non è mamma, è commercialista, capisci Mina? Mm. Siamo tutti troppo condizionati. E poi anche aprire attività produttive è complicato, Mina. Mio cugino voleva aprire un bar a Cavaillon Veronese, doveva fare il corso per somministrare cibi e bevande, a esibire licenza e permesso, dei nucleanti di sofisticazione, tutto in regola. Poi vai nel bar vicino, quello dei cinesi, la licenza l'hanno scritto sulle piastrelle del bagno col pennarello, capisci? Che non c'è, no, capisci anche Mina? Anche loro in realtà devono. Allora, per risparmiare sul costo del lavoro sono andato a produrre il riso di Samoa. Conosci Samoa? Samoa. Il viaggio per Samoa è lungo, a volte anche pericoloso. Infatti prima di partire la hostess, invece di indicare le uscite di sicurezza, legge una pagina della Bibbia, capisci? Invece di darti l'acqua c'è il prete che dà estremunzione. Il viaggio è così lungo che bisogna dare caffè anche al pilota automatico, Mina? Ogni volta che viaggio perdo sempre anche qualche bagaglio, infatti ogni volta ne spedisco 7-8, spero che almeno uno arrivi a destinazione. Gli altri si perdono sempre. Se anche un giorno l'aereo precipita nel mondo ci sarà sempre qualcuno che mette le mie mutande, è una consolazione, capisci Mina? Di qualche bagaglio che si è perso. Mina? Ma perché sono andato a produrre a Samoa? Perché? Chi lo sa? Perché i giovani Samoa, i samoiardi, non è come i giovani italiani che vuole fare tutti i lavori culturali. La cultura non serve a darti da mangiare, anzi la cultura è dannosa e te lo dimostro. Shakespeare ha scritto Rodeo de Giulietta con lì. Shakespeare? Chi? Rodeo de Giulietta, no? Ed è morto. Rodeo? Ed è Giulietta, il Rodeo de Giulietta ed è morto. Dante ha scritto anche la commedia, è morto. Manzoni ha scritto I Promessi di Sposi ed è morto. Invece i Pooh hanno scritto Piccola Katie e stanno ancora tutti bene, capisci? è l'età più o meno quella degli altri, insomma, è quella dei sepi. Scusiamo con i Pooh. Sì. L'importante è la creatività, produrre cose anche utili, innovative. Stiamo producendo un nuovo pupazzo per bambini a Samoa. Si chiama Ciccio Realista, non come Ciccio Bello. E fa le cose che fanno veramente i bambini: piange, urla, si sbrodola, si lamenta, si sveglia di notte, mette in bocca le viti, organizza giochi pericolosi e quando lo guardi accende il gas e fa esplodere la casa. Sono questi i pupazzi che piacciono ai bambini, non quei edulcorati buonisti che trovi nei negozi dei giocattoli buonisti. Perché bisogna essere sempre creativi, altrimenti il mercato ti soffoca, ti strangola, ti strigola. Parola di Battista, best imprenditore from Cavaillon Veronese. Il meglio proprio, il meglio del meglio, best imprenditore. I Samoiardi. I Samoiardi, sì, io vorrei... Oh, ma come qua tutti dei fighetti di Milano, no? Capisci che se la tira come il Mina o anche quella di Roma, tanto gentile, tanto onesta, pare. Vai a lavorare veramente, a fare attività produttive, no? Qui a parlare, come si dice, anche a parlare inutilmente, ci sarà andare, se dice, no, anche dalle mie parti. Capito? Andiamo a Samoa allora. Ma lei di giorno, visto che fa imprenditore, non ha da andare in fabbrica invece di venire a smaronare noi, Battista? Ah, io sottoscritto è sempre a controllo di tutte le attività produttive, faccio il supervisore, capisci? Nina. Ma adesso lei secondo me sta perdendo tempo prezioso però, Battista, eh? Ma anche ho accompagnato mia moglie che deve andare a fare l'iniezione del botulino. Perché anche per mantenersi un po' in forma, no? Adesso è piena di botulino in tutto il corpo. Ah, in tutto il corpo? Vabbè, si muove agile. Il nostro Leonardo Manera, cari amici, qua dobbiamo salutare come al solito tutti: Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, Lorenzo Nespoli in redazione e poi Peter Bescapè in regia. E qui e lì un magico Alessandro Chiappini. Oh, in regia sempre Leonardo Manera, Veronica Gentili, il sottoscritto Maria e la bionda Alessandro Milan. Eccola lì. Ci vediamo lunedì. Ah no, domani no. Non era male, eh. Ci vediamo lunedì, ponte per tutti, senza Pontone motivo. No, siamo ancora qui anche domani puntuali alle ore 9 voi. Noi siamo qui sempre. Dopo il giornale imprescindibili. Radio. Siamo la migliore trasmissione del mondo, caro Evaristo. A domani.